Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ed ora lo so cosa voglio da te, ma so che tu non potrai dirmi di sì. Due cieli diversi non si incontrano mai, e questo io l'ho capito sulla mia pelle, sulla mia pelle. Buongiorno a voi e benvenuti, liscia, morbida, luminosa, dorata o segnata, bizzita, tesa, spenta. Quando si parla di pelle si tende a rimanere in superficie, a limitarsi all'apparenza. Questo è un po' lo scotto che si paga, essere sempre in primo piano, proprio come succede alla pelle, di cui parleremo oggi. Oggi per questo vi invito ad andare oltre, a vedere altro, a considerare la pelle proprio come un organo da proteggere, coccolare, ascoltare, preservare con cura, direi proprio con lo stesso amore, le stesse attenzioni che siamo soliti dedicare al nostro cuore o al nostro cervello. Buongiorno al dottor Giulio Tosti, dermatologo all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno a tutti. Dottor Tosti, è uno specchio, uno scudo, un confine, un foglio anche. Possiamo paragonarlo a un foglio su cui ogni giorno, giorno dopo giorno, scriviamo la nostra vita. È il biglietto da visita che a prima vista racconta dove viviamo, anche che professione svolgiamo, se stiamo bene fisicamente, psicologicamente. La pelle è tutto questo, ma è anche molto di più. È un organo vitale, indispensabile, perché ho letto che si può vivere senza vedere, senza sentire, senza odorato, ma senza l'integrità della maggior parte della pelle non si può sopravvivere. Quindi è molto preziosa. Impariamo a conoscerla iniziando ad osservarla con più attenzione. Questo potrebbe essere un suggerimento che può apparire banale, ma può salvarci la pelle. Dottor Tosti. La pelle è un organo assolutamente complesso, è un organo che ha esercita un insieme di funzioni, che sono innanzitutto una funzione di protezione dagli agenti esterni, una protezione di contenimento, e poi una serie innumerevole di altre funzioni che vanno dalla regolazione della temperatura corporea, vanno alla sintesi e metabolismo di alcuni ormoni. La pelle è inoltre un organo indispensabile di senso, di senso, quindi di comunicazione con l'ambiente esterno, ed è sicuramente un importante organo anche per quanto riguarda la comunicazione, nel senso che noi attraverso la pelle possiamo comunicare i nostri stati emotivi, le nostre emozioni, a volte la nostra rabbia, la nostra paura. Questo penso che sia una cosa molto importante, no? La pelle quindi esercita una serie di funzioni molto complesse e che anche vanno a interagire con la nostra vita di relazione, perché è, diciamo, l'organo che in realtà interagisce per primo con l'altro, con gli altri, e quindi è sicuramente, come dicevi all'inizio, un organo che va preservato e anche un po' coccolato. Anche un po' coccolato, no? In realtà, proprio perché l'abbiamo sott'occhio sempre, tendiamo un po' a trascurarlo. Allora oggi, con il suo occhio clinico, dottor Tosti, vorrei andare a individuare quei segni che possono avere una valenza clinica. Da che cosa partiamo, dottore? Allora, il segno più frequente che si riscontra nella pratica clinica è la pelle secca, la cute secca, quindi è una pelle che ha perso la capacità di mantenere il suo contenuto in acqua, sì, e tende praticamente a quindi essere una pelle alterata. Viene persa in particolare una parte della sua funzione di barriera, e quindi è una pelle che avrà una serie di problemi, una pelle che desquama, una pelle grigia, brutta a vedersi, una pelle che spesso fa prurito, quindi il prurito va di pari passo con la cute secca. Quindi diciamo che, se dobbiamo parlare di segni clinici, la cute secca è sicuramente, diciamo, il principale. Per questo la pelle delle persone anziane è più fragile, più sensibile, proprio perché si disidrata, perché anche gli anni che passano impoveriscono la nostra pelle di idratazione, corretto? Assolutamente sì, gli anni che passano fanno ci tolgono anche l'acqua. Ci tolgono l'acqua e ci tolgono tutte quelle strutture che fanno, in qualche modo fanno da impalcatura alla pelle, sì. Quindi il derma, in particolare le fibre elastiche, le fibre collagene, la matrice extracellulare sono completamente, diciamo, alterate o comunque sono sicuramente diverse rispetto alla pelle del giovane, quindi la capacità di mantenere il contenuto in acqua, la capacità di esercitare la giusta funzione di barriera cutanea può sicuramente essere un pochino compromessa col passare del tempo. Questo fa parte proprio anche dell'invecchiamento fisiologico. Dottor Tosti, siamo arrivati a parlare di nei, quelle piccole macchioline marroni oscure che tutti noi conosciamo, le abbiamo tutti. In questa puntata che è dedicata alla prevenzione le chiederei di aiutarci a capire quali sono i nei che possono crearci un sospetto per poi magari parlarne con il dermatologo. I nei possono essere tanti o pochi a seconda dei soggetti e soprattutto possono avere tante forme, tanti aspetti, tante presentazioni. Quindi ci sono dei nei che si manifestano come delle piccole macchioline piane, sì, per esempio, e dei nei che invece si manifestano come delle piccole lesioni che invece hanno una loro palpabilità, una consistenza, che sono rilevate. Quindi l'aspetto clinico può essere estremamente diverso e questo è un primo aspetto da considerare, perché ovviamente possiamo avere dei quadri clinici molto differenti. E diciamo che i nei dobbiamo tenere maggiormente sotto attenzione sono i nei che o sono di recente insorgenza, quindi sì, lesioni cutanee che non erano presenti e che a un certo punto compaiono, soprattutto se compaiono e poi si accrescono o si modificano rapidamente, e dall'altra parte tutti quei nei che abbiamo magari da molto tempo ma che a un certo punto iniziano a modificarsi. Quindi la cosa che diciamo unifica il tutto è la modificazione, l'evoluzione, cioè tutte le lesioni che cutanee che nell'adulto tendono a modificarsi in dimensione, forma, simmetria, bordi, colore, rilevatezza sul piano cutaneo andrebbero sicuramente fatti vedere al dermatologo. Sappiamo infatti che la diagnosi precoce è fondamentale, in particolare nel caso dei melanoma, stiamo parlando di nei, lo sappiamo che è il tumore della pelle più aggressivo, ma la buona notizia è che se individuato in fase iniziale può essere eliminato con un intervento chirurgico, dottor Tosti, e le possibilità di guarigione superano il 90%. Mi piace sottolineare questa notizia, che è una buona notizia, che deve invitarci a non esitare, non avere paura, sottoporci dei controlli. La maggior parte dei melanomi che noi diagnostichiamo e asportiamo sono in realtà dei melanomi che vengono diagnosticati in una fase molto iniziale. E questa è una cosa molto importante, perché significa che nella maggior parte dei casi il paziente sarà guarito e quindi nella maggior parte dei casi questa diagnosi non andrà a determinare una diminuzione dell'aspettativa di vita, e questo è quello che succede in più del 90% dei casi. E questo è legato essenzialmente innanzitutto ad una maggiore consapevolezza delle persone che si fanno vedere più volentieri dai dermatologi, e poi anche per il fatto che un amico per la pelle e anche per il fatto che il dermatologo pone sempre più attenzione e tende sempre meno a sottovalutare questo argomento, perché sappiamo che ormai il melanoma non è più un tumore raro. Quindi anche la possibilità di utilizzare per esempio degli strumenti diagnostici fini, avanzati, ci permette di fare sempre delle diagnosi più precoci. Dottor Tosti, chiusura di questa nostra chiacchierata, le lascerei le conclusioni per aiutarci a fissare un po' i passi della prevenzione, della cura di questo organo straordinario. Direi che la prima cosa per quanto riguarda la prevenzione, se parliamo di prevenzione in senso oncologico, sì, è di cercare di fare delle campagne di educazione, di sensibilizzare i soggetti giovani, i bambini, gli adolescenti per quanto riguarda una corretta esposizione al sole. Dopo la prevenzione primaria, la cosa importante è fare prevenzione secondaria, quindi fare diagnosi precoce. Per cui questo significa che tutti i soggetti adulti, per me adulti significa dopo i 20 anni, dovrebbero iniziare a sottoporsi ad uno screening dermatologico, in particolare quei soggetti che per motivi personali o familiari o per il particolare colore dell'incarnato, degli occhi, eccetera, hanno una maggiore suscettibilità a sviluppare dei tumori cutanei o melanoma. E il fatto di fare un controllo dermatologico periodico consente sicuramente di avere comunque la propria salute della pelle sotto controllo e, nel caso in cui compaia qualcosa di particolare, di fare una diagnosi subito. Precoce, intervenire subito. Grazie dottor Tosti per essere stato con noi. Io vi do come sempre appuntamento alle 12 subito dopo il GR per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata intanto da Nicoletta.